diremo solo Spring Break. Il collega Biglino, diciamo, si occupa della questione delle, dell'intelligenza aliena con un approccio finzionalista che non, come dire, non appartiene molto allo spirito di chi parla, perché lui adotta il metodo del come se facciamo finta che esistano. No, no, diciamo le cose come stanno. Esistono gli Elohim, hanno progettato la razza umana all'inizio dei tempi. L'hanno progettata con l'ingegneria genetica, e questo lo dice la Bibbia, che ricordiamo essere un testo assolutamente inossidabile dal punto di vista della verità. Tutte le righe della Bibbia, specie quelle contraddittorie. Però dobbiamo chiederci perché è nato, è stato fatto nascere l'essere umano. E la risposta è una sola: perché in un qualche modo questi esseri avevano bisogno di giardinieri, di pastori, di qualcuno che amministrasse le terre che erano andati ad occupare. I teologi parlano come se la Bibbia non esistesse. Virtuosismi. Per quanto le elucubrazioni di Biglino non siano tra le più raffinate, sicuramente è un parresiasta in questa società di scientisti e positivisti che insomma tanto ci appesta. Fa anche una riflessione su quella che è proprio il tragitto che fa il popolo ebraico all'interno dell'esodo. Iniziano a vagare per il deserto, praticamente, questi, per, non so, 40 anni? Una cosa così. I geografi, quelli delle istituzioni, diciamo, non... esatto, quelle canoniche, quelle... Quelli collusi coi poteri forti. Sì, quelle anche un po' noiose, insomma, quel tipo di istituzioni, dice, hanno provato a fare i calcoli, hanno provato a vedere, questi sono stati 150 anni nel deserto, non mi ricordo, 40 anni, una cosa così, comunque un tempo infinito, e dice, non era un deserto così grande, cioè questi devono aver proprio girato intorno, devono aver fatto tutte le cose. Io ho una domanda: ma c'è una spiegazione geografica o si può parlare solo di sadismo e poi scopriremo di chi? Non bisogna mai fidarsi dei calcoli degli storici. Molto molto interessante, queste domande che non trovano spesso risposta sono sempre le domande più rilevanti. E le mie preferite. Damiano dei Maneskin, diciamo, non ha il viso simile soltanto alla principessa Diana. Questa è proprio realtà, davvero. Sempre ritornando sul momento dell'esodo, popolo ebraico in questo deserto, che praticamente loro vengono guidati dall'angelo del Signore, e l'angelo del Signore di notte è un fuoco nel cielo affinché lo potessero vedere, e di giorno è nero. L'angelo del Signore, sì, quando scende nella tenda di Mosè, il popolo ebraico si deve allontanare, perché se no vengono bruciati e qualcuno ci è rimasto secco. Angelo del Signore è una navicella. L'arca dell'alleanza, in questo senso qui. Secondo l'interpretazione di Biglino, questa arca dell'alleanza in realtà altro non è che un dispositivo tecnologico di natura nucleare. Poteva essere una papaya, come cantava un altro collega, quanto è Gaia la papaya. Fa ridere, ma fa anche riflettere. Io credo che la storia sia la fucina di racconti fantasy più grande che c'è nel mondo. Sono terraformatori in qualche modo, sono ingegneri genetici in qualche modo, sono portatori di una conoscenza e di un fuoco di Prometeo che in qualche modo porta l'umanità su un altro livello ad un certo punto. Potete dormire tranquillamente con le porte aperte, perché sappiate, finché il DUSA rimane aperto, finché il DUSA continua ad esistere, i rettiliani non invaderanno mai, i rettiliani malvagi non invaderanno mai questa terra. Non abbiate paura di aprire gli occhi nel buio, perché non è da lì che respirate. I must have died and gone to heaven, 'cause it was quarter past 11 on a Saturday in 1999. Right across from where I'm standing, on that dance floor she was landing, it was clear that she was from another time. Like some baby Barbarella, with the stars as her umbrella, she asked me if I'd like to magnetize. Do I have to go start trekking? 'Cause it's you I should be checking. So she lays a beam out with her cosmic eyes. Oh yeah. She's just a cosmic girl. Oh yeah. From another galaxy. My heart's in zero gravity. She's from a cosmic world. Putting me in ecstasy. Transmitting on my frequency. She's cosmic. I'm scanning all my radars. Well, she said she's from a quasar. 40,000 million light years away. It's a distant solar system. Try to phone, but they don't listen. So I asked her for a number of the same. She said, step in my transporter so I can teleport you all around my heavenly body. Oh, this could be a close encounter. I should take him not to flounder. Sends me into hyperspace. When I see her pretty face, she's just a cosmic girl from another galaxy. My heart's at zero gravity. She's from a cosmic world, putting me in ecstasy, transmitting on my frequency. She's cosmic. Let's suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream. And you would naturally, as you began on this adventure of dreams, you would fulfill all your wishes. You would have

vi sognerò tutte e tutti stanotte. Privilegio. Thank you. Maestro Buddha Grass, è un onore averla qui con noi. Mi sento unto. Lo scienziato Pauli, il famoso fisico, famoso per... non mi ricordo assolutamente cosa. Guarda, io vorrei ritornare sul concetto di sincronicità. Abbiamo praticamente visto gli stessi due video che abbiamo visto. Io oggi ho visto due video su YouTube. Io ho visto due video su YouTube oggi. Oh. E erano gli stessi. Ma e quali erano questi video? Allora, si trovano sul canale. Si trovano sul canale di Red Ronnie. Go the other way. Malanga. Cosa dicevi, maestro? Per la prima volta il cognome Malanga mi è sembrato un'onomatopea sentito dalle corde tropicale vocali di Ricky Django. Sì, Malanga. No, quasi. Tropicale. La questione del 432 Hz. Sì. Ho la pelle d'oca. Come possiamo... Combattiamo la paura. Io sono pronto, sì. Tu maestro hai paura? No, nemmeno io. E sconfiggiamo il male. Good vibrations. Sì, good vibes. Tante buone vibes per noi. È tutta energia. Noi la vediamo quando si abbassa e le frequenze che vediamo noi sono limitate, ma la gamma di frequenze è illimitata. Certo, e l'energia è il risultato del pieno e del vuoto, perché te nella frequenza c'hai una sinusoide che va sia nel positivo che nel negativo. Veli spessissimi e funzionali. Serviranno motoseghe per abbatterli. Stanno cascando perché con la vibrazione di Gaia che si alza, il loro gioco sta per finire. I burattini insistono ma non hanno più nessuna guida. Bisogna far luce e l'informazione è luce e la luce è un'alta vibrazione. E come... noi siamo come delle radioline, tutti noi, e abbiamo una banda di frequenze che possiamo captare da sinistra a destra ed è limitatissima. I canalizzatori vanno oltre sulla... hanno una banda molto molto più ampia. Se va a sinistra e si abbassa, diciamo anche va in basso, hai contatti con il buio. I demoni. I mostri. Nei sogni si incontrano esseri strani. Io penso che ognuno di noi è pronto in momenti diversi, come delle pietanze squisite, ottimamente cucinate. Respirate consapevolmente nel plesso solare. Sto respirando. Wow. Thank you. sono in te. Quando tu sei in me, noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno. Noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai per niente al mondo. Noi siamo figli delle stelle, senza storia, senza età, eroi di un sogno. Noi stanotte figli delle stelle, ci incontriamo per poi perderci nel tempo. Oh! Come due stelle noi, riflessi sulle onde scivoliamo. Come due stelle noi, avvolti dalle ombre, noi ci amiamo. Io non cerco di cambiarti, so che non potrò fermarti, tu per la tua strada vai. Addio ragazza, ciao, io non ti scorderò, dovunque tu sarai, dovunque io sarò. Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno. Noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai per niente al mondo. Noi siamo figli delle stelle, senza storia, senza età, eroi di un sogno. Noi stanotte figli delle stelle, ci incontriamo per poi perderci nel tempo. Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno. Noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai per niente al mondo. Allora, sull'egittologia si è detto tanto, forse troppo. Quello che dirò io oggi è... Sì, rispettate le figure geometriche semplici, perché davvero è stata una campagna denigratoria e infame, secondo me. Grande pezzo questo. E se i veri alieni fossero gli amici che ci siamo fatti lungo la strada? O se i veri alieni fossero dei ventriloqui? Ma il maestro ha la libertà di fare ciò che più lo aggrada. Era per dire, poi, che ne so, assaporare i colori. Tutto ciò che è nel piccolo e anche nel grande, nel senso realtà olografica. Sto parlando di realtà olografica. Mi viene in mente per esempio il velo di Maya e il noumeno, in questo senso. Scusa Schopenhauer. Scusa Schopenhauer, davvero, comunque scusa Schopenhauer. Ovviamente viviamo in un Matrix creato dai potenti dei macchina certo. Che si nutrono di noi nelle vasche di liquido amniotico. Noi al DUSA teniamo ad attenerci ai dati scientifici e verificabili, come ad esempio la presenza di agenti del Matrix in questo momento in questa stanza. E di un buco al centro della Terra. E lui, questi qui hanno detto questa roba, che praticamente gli ominidi che dovevano essere praticamente Homo habilis, più o meno, a un certo punto arriviscono tutti comunque, hanno iniziato a mangiarsi questi funghi allucinogeni perché crescevano su le chiazze di terra su cui cascavano gli escrementi degli animali che cacciavano. Noi del dipartimento ci teniamo a precisare che questa teoria, anche nota come teoria della scimmia drogata, come quella acquatica, è stata proposta da un personaggio che si descriveva da solo come un etnobotanico e un mistico, di nome Terence McKenna, in un libro intitolato Il cibo degli dèi. Uno scienziato. Sì, lo definirei così, un vero scienziato. Nella foresta amazzonica, nella foresta tropicale, i giaguari sleccazzano la DMT e si fanno i viaggi. Sono i giaguari. E le persone che hanno fatto uso di DMT dicono che nel trip incontrano i giaguari. I giaguari. Questa è una domanda seria per il maestro. Sì. Hai avuto contatti con le tue vite passate? Incredibilmente sì. Ad un certo punto della mia esistenza ho sentito uno strano tipo di vuoto intorno al plesso solare. Questo vuoto mi ha fatto porre delle domande, mi sono posto degli interrogativi, ho cercato di venire a capo di questa cosa, perché sentivo un vuoto in quella zona. E poi ho fatto dei sogni e poi ho avuto delle visioni. Io sono sicuro che sono morto trafitto da una lancia che mi ha trafitto al di sotto del costato. Comunque la morale è: non trattate male le persone che poi si incazzano, no? Sì, sì, è quello che volevamo dire. Perché? Perché? Ma che vuol dire perché? Ma io ti dico perché, per esempio. Non ha nessun senso perché. Cerchiamo di vivercela tranquillamente, in maniera, come dire, di trovare delle soluzioni abbordabili. Io parlo di questo, soprattutto di soluzioni abbordabili. Etere, materia sottile, qualcuno usava il nome Akasha. Ma scusa, c'è un punto a questo discorso? Sì, però lo decido io quando arriva. Siamo lontani dalla verità. Continuo a godere. Thank you. un visiting professor da Agartha. Grazie, buonasera, buonasera, buonasera a lei professore, buonasera a tutti, sì, sono io, vengo da Agartha, ecco, non so se la conoscete. Si sente dall'accento un po', secondo sì, me. Sì, palesemente vedo. Da Agartha, sì, sì, sì. Agartha è una città ampia che racchiude molti sogni, molte anime e soprattutto molta storia. Stasera principalmente ci occuperemo di una delle figure più magnetiche, più affascinanti che hanno interessato la storia del secolo scorso, in particolar modo della nostra penisola, ovvero Gustavo Adolfo Rolla. Mi si sente? Sì, sì, sì, indiscutibilmente. Oh, sì, Rolla. Roll another one. Vorrei un attimo capire dove è nato? A Torino. Casa sua, via Silvio Pellico 31. Noi organizziamo anche dei pellegrinaggi per chiunque volesse andare a pregare davanti al luogo dove il dottor Roll ha eseguito queste magnificenze astrali, diciamo. Mi iscriverò. Parlare di magia è un po' fuorviante, perché si torna sempre lì. Per il volgo è necessario usare la parola magia, perché era questo che in sostanza faceva Roll. Faceva delle magie, ma in realtà lui aveva un contatto con una spiritualità elevata. Le sue non erano magie, le sue erano la manifestazione dell'etere, dello spirito divino, che attraverso la sua figura si manifestava in quanto entità prorompente. È ovvio, e qui concorderete tutti con me, che il sistema copernicano è fallace. Certo, in tutte le sue ipotesi. Una carta che cambia seme o che cambia colore, carte che si trasmettono da un mazzo a un altro, carte che vengono poste a faccia all'insù nel mezzo di un mazzo e che scompaiono magicamente. Ma il dottor Roll tutto questo lo faceva in modo sincero. Le manifestazioni che Roll con le carte eseguiva erano le rappresentanti appunto di questo spirito intelligente che permea l'universo. E davanti a Federico Fellini il 9 di picche si trasformò in una donna di cuore. Il dottor Roll anzi era una persona molto umile, e le testimonianze dei suoi autisti negli ultimi anni della sua vita riportano che lui girasse per gli ospedali, andava a controllare i malati, stava con loro, li aiutava a superare gli ultimi momenti prima del trapasso, ecco, all'aldilà. È tipico delle persone umili il fatto di avere degli autisti. Esatto, certo. Non un autista, ma degli autisti. Roll era una persona umile. Incredibile. Pensate che lui ha 3 lauree. Prima ha lavorato in banca, poi ha iniziato a fare il commerciante di oggetti d'antiquariato e poi ha intrapreso la carriera di pittore. Un pittore squisito, tra l'altro, ma un uomo di una cultura, di un'eleganza, neanche a che vedere con personaggi dello stesso secolo, che veramente dei cenciari. Certo, dei così dice, charlatani. Dei charlatani, in qualche modo. Sì, sì. E quando si muore, secondo il dottor Roll, l'anima trapassa e raggiunge il divino, mentre lo spirito intelligente rimane a operare nel mondo sublunare. E il dottor Roll era capace di entrare in contatto con questi spiriti intelligenti e di usufruire dei loro poteri per poter appunto realizzare questi grandiosi prodigi. Tantissime volte il dottor Roll si è usufruito dello spirito intelligente appartenuto ad esempio a Picasso per fargli dipingere un quadro, o a Napoleone per far materializzare il suo elmo o un bottone della sua camicia. Alienistico-mediatica. Mi riferivo in particolare a certe esperienze collocabili nell'Ottocento. Certo. Penso alla famosa medium Helen Smith, che mediante la scrittura automatica ci ha dato testimonianze preziosissime sulla letteratura marziana e sulla civiltà di Marte, un altro caso interessante. questa teoria che collegava la quinta musicale con il colore verde. Erano gli anni 30 circa del Novecento, e a seguito di questa incredibile scoperta il dottor Roll si ritirò in convento perché aveva perso la voglia di vivere. Poi, grazie alla tua magnanimità, alla sua capacità di trascendere, di capire anche l'etere divino, riuscì a superare. Ma io vi assicuro che quello che ha scoperto Roll è veramente qualcosa di terribile. Infatti ne sappiamo spaventosamente poco tutt'oggi, come il multiverso. Mentre voi decriptate, noi facciamo il cruciverbo. C-O-S-M-I-C Cosmic Thrust. Cosmic Thrust. C-O-S-M-I-C Cosmic Thrust. Cosmic Thrust deep down. Party people, pump it up, pump it up, pump it up. Cosmic Thrust, move it up, move it up, move it up. For all the rockers in town, town, town, town. Cosmic Thrust got the sound. You, you, and you, get down. And everybody go bang. And everybody go bang. And everybody go bang, go bang, go bang, go. And everybody go bang, go bang, go bang, go. Ha, go bang. It's rapper time. Rapper time. Rapper time. Just kick it loud when the cosmic rhyme. Lisa Lee. On the mic at the date and time to prove to the world that I'm the queen of the rhyme. Lisa Lee, not to be the people's choice of getting parties jumping with my sensual voice. Doesn't matter, it's all on you. So sign a petition for the newest edition. I surely you'll agree, my rhyme is all fishing. I'm a cool out kid, I'm with a hypo style. And when you hear me start to rap, the ladies will smile. And all the fellas getting jealous when they hear me rhyme. Go sample, moving up into the big times. Hey, everybody, baby, bitches in town. Eliminating MC that are not down. On the microphone to have a good time. I can rhyme over time, on a drop of a dime. I'm baby, big girl, and I'm in the flesh. I don't dress to impress, won't settle for less. The new MC that knows the shit. Cause people flip and they that we are. Roger, we got it, we've marked it. Who's the occasion? Bravo Tango, Bravo Tango.